24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Vogliamo elettori, il bagno alla turca! C'è qualcosa che non va in questo cielo. Allora, c'è chi dice no, questa è la canzone di Vasco Rossi, c'è chi dice no al Senato, c'è chi dice no, parrucconi, vecchi, conservatori, gufi, uccelli del malaugurio, per Renzi l'Italia ormai si divide così, c'è chi sta con lui e c'è chi dice no al Senato e tutti gli altri sono questi qui, insomma, i tromboni, come titola il giornale oggi, fuori i tromboni. Allora, è così o no? Quelli che bloccano il cambiamento glieli do, che provano a bloccare il cambiamento, essendoci lo scrutinio palese, glieli do alla fine della votazione. Sono i benaltristi. Ripeto, c'è la massima, il massimo rispetto per le opinioni altrui. Credo però che ci sia un dovere a un certo punto di decidere. Il tentativo di non decidere e di rinviare ulteriormente è un tentativo di bloccare il cambiamento. I nomi e i cognomi di quelli che vogliono bloccare il cambiamento saranno minoranza, sia all'interno del Senato che all'interno del Paese. Pure benaltristi. L'Italia ormai, Renzi è in perenne campagna elettorale, parliamoci chiaramente, o no, mi sbaglio, è così, insomma, ci sono quelli con lui ci sono quelli che dicono no al cambiamento. Alle 6:33 minuti, benvenuti a 24 mattino con oggi Elisabetta Fusconi svegliata, sono andati a prenderla di peso a Laura e l'hanno portata qua, e saluto Peter Bescapè in regia, il nostro alpino in regia con il Parlamento che può aprire, anche il Senato può aprire un caffè per poco. No, ma il Senato rimane, adesso non è che... È un Senato diverso, sarà un Senato diverso se verrà tutto approvato, Quanti saranno i senatori? 148! Non prenderanno soldi perché saranno sindaci, governatori, insomma, quelli che prendono già i soldi a livello locale. Non voteranno, non so, la legge di bilancio, non voteranno la fiducia, uno snellimento delle procedure, ma c'è chi dice no a questo. Voglio salutare Vincino, uno che dirà sicuramente di no. A che cosa? No, al Senato. No, guarda, allora, sì. In questo momento io sto con Renzi al 200%, anche se questa riforma del Senato è la schifezza peggiore, come era la schifezza della legge elettorale, no. Però, come dire, che ci dobbiamo fare? Accontentiamoci delle schifezze, perché che così si dava una smossa. Sei tornato renziano. No, ma dico, però questa è la peggiore delle schifezze, ma che dobbiamo fare. Sai però, caro Vincino, in tutto, nel silenzio, sai chi ha fatto la vera riforma, il vero cambiamento epocale, ma veramente il cambiamento epocale. Allora, la Lega Nord, la Lega. Saluto Aurora Lussana, direttore della Padania. Aurora, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a te, Mila. Buongiorno. Caro saluto ai tanti amici di Radio 24. La Lega. Radio più amata dopo Radio Padania. La seconda, siamo sempre la seconda. Sì. Vabbè, sono dopo Radio Padania, va bene. Ha rottamato che cosa? La Padania avete rottamato, cioè non nel senso il giornale, no. Era tipo una polenta la Padania, un nome. No, ma ecco. Poi ti spiegherò. Allora, no, ieri è stato presentato il simbolo che la Lega utilizzerà per la prossima tornata delle elezioni europee, il 25 maggio. Sì. Ovviamente rimane il nostro Alberto da Giussano, il guerriero. Sì. Rimane il leone di San Marco in battaglia con la spada sguainata, il libro, il Vangelo di San Marco chiuso perché si è in guerra. Il Sole delle Alpi rimane, la scritta Lega Nord, quindi il contrassegno storico, ma nella peccetta giù in basso, anziché Padania, abbiamo messo questo sigillo, il sigillo del Basta Euro. Basta Euro, hai capito, caro Vincino? Niente Padania, ma Basta Euro. Un accrocchio di quelli, guardi, qualsiasi grafico direbbe quello è un accrocchio assurdo. No, il guerriero di Bassano, il leone di Coso, la faccia e il martello, il libro aperto, il sole dell'avvenire. No, il libro chiuso! Non ne ha azzeccata una. Vedete quelle cose, i simbolini dell'Apple come sono fatti? Semplici. No, non ne hai azzeccata una, Vincino. Alberto di Giussano. Il 4 maggio c'è Giussano, no. Possiamo ufficialmente invitare Vincino, che lo porto io nella stessa abbazia di Pontida, e gli facciamo così una sintesi della storia lombarda. Effettivamente. Va bene, invitato tutto, pranzo, caviale, aragosto, tutto preciso da come da consigliere lombardo, arrivo di corsa. Vabbè, è così, è così. Ma perché i senatori questi qua non pagati quando arriveranno a Roma, dove mangeranno? Vincino, vabbè. Cioè, è così, io cara... lo dai il caviale, la ragosta e tutto il resto, scusate, poveretti, pagati, ma... Cara Aurora, il buon Vincino è così, dovete fargli un ripasso di storia, ma rapidissimo. Portatelo a Pontida, mettetegli la spada di Giussano, no Bassano, Giussano, caro Vincino. E poi il libro è chiuso, no? Perché Aurora? Perché si va in guerra e quindi... sì, il Vangelo di San Marco è chiuso. È chiuso, non il libro aperto. Sì, no, ma io il libro aperto era quello là dei socialisti di un tempo, libro aperto, faccia e martello, solo dell'avvenire. Vabbè. Cioè, quando i partiti mettono, complicano tante cose, vuol dire che sono alla fine. No, però, vabbè, adesso al di là di tutto, Aurora Lussana, però è un cambiamento, adesso sfruttate questa cosa dell'euro, però togliere Padania e mettere e Basta Euro, insomma, oggi tutti i giornali fanno, vi dedicano attenzione a questo cambiamento, Ma va bene così, non ce ne hanno dedicata abbastanza per questo fine settimana di gazebate al nord, dove abbiamo raccolto più di 100.000 firme a sostegno dei 5 quesiti referendari. Siccome al gazebo mi aspettavo che arrivassi anche tu, Milan, perché un tuo noto collega invece li ha sottoscritti. Ah, sì. Della Lega. Ha arrivato Cruciani con Efe Balla, a braccetto. Un bravo collega, non al tuo livello, ma insomma un tuo bravo collega di Radio Padania. Aveva livelli molto, molto più alti. Radio 24. No, li ho visti arrivare, Riforma Fornero, Legge Merlini, concorsi per gli immigrati, Legge Mancino, prefetture, tutte robe che anche Vincino secondo me potrebbe sottoscrivere. Sapete chi si è unito a questo? Antonio Razzi, cioè si è unito, anche lui si è unito in questa battaglia, ha proposto... Lui è fanatico della Merlini. No, ma da ragazzino era là, guarda. Ma non è vero, ha detto... Sì, guarda, ma che ne sai tu? Lui aveva 12 anni e c'era, l'ho visto là, me lo ricordo. Antonio Razzi, che dice sul Fatto: io sono 40 anni che vado con la stessa donna, ha detto: io le chiamerei oasi di pace. Oh, le case chiuse, oasi di pace o oasi di relax. Io mi inchino a tutti i grandi pittori e romanzieri che hanno passato le loro più belle della loro vita là. Sull'Utrecht, a Moravia, tantissimi, guarda, proprio momento infatti, a Marcord di Vincino, No, ma è la letteratura, la storia questa qua che io devo fare. Anche Antonio Razzi, insomma, vuole aprire le case chiuse. L'importante è che cancelliamo questo abominio che è la prostituzione di strada, lo sfruttamento delle donne, la tratta delle schiave del sesso, le donne che liberamente si vogliono autodeterminare seguono la professione, sono professionisti del sesso, lo scelgono liberamente, è giusto che vengano regolamentate e tassate. Tra l'altro, ma io volevo parlare del Senato, però mi avete portato qui. Razzi propone anche: se si rompe il preservativo, bisogna fare un controllo nel giro di un giorno per lui e per lei. Questo sono tramite gli operatori di assistenza sessuale. Questa è una parte. Vabbè, ma insomma, ecco, diciamo, caro Vincino, torniamo al Il Fatto Quotidiano. Vabbè, parla solo o di Corea del Nord o di oasi di pace, Razzi. Questo... E anche il Fatto Quotidiano, diciamo. No, no, vabbè, il Fatto Quotidiano parla anche. Questo è un altro appello come quello di Zagrebreschi e Rodotà e gli altri. No? Sì, c'è una Zagrebreschi, Rodotà. E loro non parlavano quasi, ma dopo che hanno parlato, hanno detto: no, può essere, via. Vabbè. Ha ragione Renzi. Via. Allora, il Senato, no, adesso voglio capire un attimo, sì. Voi la vedete questa Italia di divisa così in due, cioè ci sono i parrucconi vecchi, conservatori, Vincino. No, ormai sono una minoranza. Quindi, i tacchini che non vogliono festeggiare il Natale. E poi che voglio il Senato con la cravatta, no? Sì. Che tu lo sai che arrivi là, quando io non ce l'ho, me la danno loro, no? E io poi c'ho qui otto cravatte ormai del Senato. Quante cravatte hai rubato? Sì, otto. Ma no, perché poi io esco dall'altra parte da dove si entra, per cui perché il Senato è una cosa, cioè proprio non si capisce niente. La Camera è chiara, precisa, il transatlantico. Il Senato no, è tutto proprio un gazzebuglio di entrare, scendere, salire, ricosare, uno si perde sicuro. Sono i veri trucchi per rubarti le cravatte, sì. Questa è la verità, caro Vincino. Ma sono belle queste cravatte del Senato? Oppure? Orribili, guarda, nere, orribile, una cosa, guarda, proprio... Ma è schifosa, cioè, a rivenderle ci fai €1,50 a cravatta. Assolutamente, il cane gli piace mordicchiarle, farle... Mettine una oggi al busto di Andreotti e mandaci una foto, così... Va bene, e faremo anche questo, faremo anche questo. Sta sempre a lavorare, no? No, vabbè, devi mettere... Col libro, con la cosa, e quell'altro, col manifesto. Vabbè. E non mi lasci un minuto in pace. Cara Aurora Lussana, che ci avevi con Garibaldi? Tu ho sentito. No, Palazzo Madama è un bellissimo palazzo, queste razze, cioè questa. No, è un palazzo stupendo. No, il problema è che c'è questo salone Garibaldi un po' inquietante con questa figura qui stilizzata di Garibaldi, con un'opera contemporanea. Ah, fa la mascare con questi affreschi. Ancora con Garibaldi ce l'avete? No? Un massone. Un massone. Ma erano tutti massoni al Senato, non ce n'era uno che non era massone al Senato di quell'epoca. Mamma mia, adesso questo era un massone, quindi, ma dite qualcosa. Sì, comunque una riforma pasticciata, dai, insomma, io ce lo vedo Renzi che ce l'ha con tutti i professoroni, però io da leghista integralista, insomma, rimpiango un grande professore che era... Gianfranco Miglio. Sì, però voglio dire, se per qualsivoglia motivo alla fine vi fa un Senato da 148 senatori, non va bene? Aurora, se ce la fa alla fine. Ieri abbiamo sentito Salvini, ha detto una porcheria, poi abbiamo fatto una bella intervista al vicepresidente del Senato, che è Calderoli, che è stato ministro delle riforme. Uno a caso. Lui dice che vabbè, vuole vedere il testo, perché al di là delle conferenze show bisogna poi guardare il testo. Ci sono troppi nominati e non si capisce bene, visto che poi alla fine lo svuoto di poteri, che è l'altro per svuotare le regioni di poteri. Cioè se tu mantieni in piedi un senato così, delle rappresentanze territoriali, ma non dai loro, cioè le autonomie, poteri reali, non va bene comunque. Diceva, no, è tutto un po' pasticciato. Ma, però, ma ho capito, ma dice troppi nominati, ma se arriva a 148 scendendo da 315 è già una buona cosa? Oppure no? Neanche questo lì. Sì, ma allora o uno fa il governatore, uno fa l'assessore, uno fa il sindaco, cioè che poteri avrà realmente questo senato delle autonomie? Speriamo quasi nulla, il problema è il bicameralismo, che in Italia è tutta piena di bicameralismi perfetti dappertutto, polizia e carabinieri, per esempio, perché ci sta? Guarda, nel 2006 c'era una riforma organica fatta bene, la sinistra l'ha affossata, no? E secondo me ormai si è rimasti tutti indietro. Ho capito, ma da allora quindi voi affosserete quella che adesso fanno? Però hai capito, cioè tu facevi una riforma del governo, quindi della forma di governo, poi finiva il bicameralismo perfetto, ma sì, c'è arriva alla forma del governo, poteri del Senato, delle autonomie. qui è una roba un po' così. Oh, niente, Vincino, ci stiamo provando a convincerli. Scusami, Correnzi che nominerà i ministri e così, tra pochissimo, è il passo dopo, l'ha detto. Come in Francia che via, ha spostato, leva quel cretino di primo ministro, ne mette un altro cretino. Ma no. Che ha perso quattro elezioni in quattro città. Vincino, comunque, ci stiamo provando qua, ma Aurora Lussana lì con Alberto da Giussago, Bassano lì, Giussano, non la convinciamo, questa è la verità. Aurora, non ti convinciamo, andiamo a sentire il traffico. 24 mattino. Città del Vaticano. Il Santo Padre ha ricevuto in San Pietro circa 500 parlamentari italiani. Allertate Gendarmeria Pontificia e Guardie Svizzere per prevenire sparizione di candelabri, ostensori e cassette per elemosine. Io sarò breve e circonciso, anzi, tanto che ci sono mi faccio tagliare anche le palle. Il 9, 10, 11 maggio a Pordenone c'è l'87esima edizione della Dunata Nazionale delle Penne Nere. Quindi l'alpino Peter Bescapè prepari lo zaino e tiri fuori dalla naftalina il cappello. Sono stanco dei marò, sono stanco. O hanno sparato per paura o per fare esercizio di tiro. Non me li facciano passare per eroi. E quanto ci costeranno, sti marò? Attento Grillo, se risorgono gli antichi stati italiani potrebbe aggravarsi la crisi di Crimea. Genova, infatti, potrebbe a buon diritto rivendicarla ed invadere la Russia. Ciao Alessandro, il titolo giusto dopo la visita di Obama sarebbe stato Barack e Burattini. Sarei tanto curiosa di sapere proprio a chi andranno le automobili messe all'asta, chi le comprerà? Sulla riforma del Senato possiamo metterci un pietro sopra finché per i senatori c'è grasso che cola. Vabbè, gli ascoltatori si sbizzarriscono. Vincino, ma tu la compreresti un'auto blu all'asta? Un'auto blu. Meno quella là di coso di là, la Maserati di La Russa, le altre sì. Perché quella di Maserati? Ma la strappa, le guida malissimo, è un cane secondo me proprio, non nevrotico, fascista, ma è terribile. La guidava lui secondo te? La guidava lui. Ma cioè lui ogni tanto diceva perché si compra la Maserati? Per provare il brivido, no? Vabbè, tu Aurora la compreresti una bella auto usata. Le blindate così consumano troppo, c'ho la 500, io 2008 quest'anno la devo cambiare, ma la 5, c'hai una 500? Sì, rosso maranello. Oh, fantastico, ma quella vecchia maniera o c'è 500? No, no, no, no. La 2008. Ah, la 500 nuova. Va bene, allora vi faccio sentire questa di Oscar Farinetti ha la soluzione per il sud, cara Lussana. Ascolta bene anche tu, caro Vincino, per la tua Palermo, per la tua Mondello. Sentite bene. Io penso che il sud sia in una condizione terrificante. È stato fatto troppo welfare nelle istituzioni. Per me il Sud c'è una roba sola da fare, un unico grande Sharm el Sheikh. È presente quella roba in Egitto dove ci va tutto il mondo in vacanza? È uno dei posti più belli del mondo. Facciamo venire i turisti di tutto il mondo lì. Oh, caro Vincino, una grandissima Sharm el Sheikh al sud, da Roma in giù. Insomma, non lo so, sono rimasto senza parole. Infatti ti ho sentito per la prima volta Vincino disarmato, disarmato. Come dire, c'ho proprio un groppo allo stomaco, no. Devo dire. Già mi stava sul cazzo questo Oscar Farinetti, come tutti questi imprenditori che si sentono vendi Brustel, è stato buono, no, hai provato con le televisioni, non ci sei andata bene, ora provi con i cosi. Si mangia, non è che si mangia così bene poi in realtà. No, vabbè, adesso no, a Italy di Roma ci sono dei, come dire, non è che vabbè, adesso se poi ti racconto no, no, no, no, per no, carità, no, per carità, no, perché... la cosa. Ma insomma, ma trasformare tutto il sud in una grande hit, Sharm el Sheikh, il posto più orribile del mondo, è una cosa terribile, no, vabbè, come io, non lo so. L'hai presa male, sei rimasto senza parole, sì, ma poi ti sono venute, ecco. Simile, ma, no, come dire, ma chi cazzo, cioè, non lo so, ma come no, se ne vola, Aurora, fermalo, ci sono i bambini ancora a casa, ma che possiamo fare? Infatti, Aurora, fai qualcosa, no, perché... No, il sud fa quello che vuole, diventa ciò che vuole, l'importante è che non chiede soldi al nord e poi il sud... Si facciano la loro Sharm el Sheikh, no? Ma se la facciano al nord, fai diritti che del nord si faccia tutto quello che vuole al nord, va bene? Al nord, va bene. La Repubblica Veneta, quello che vuole, la Sharm el Sheikh, sì, va bene. Insomma, diciamo che questa proposta di Farinetti non è proprio graditissima a Vincino, ecco, mettiamola così. Ritorniamo al nostro Senato, ho capito perché la Lega partì dal Senato, il senatur, l'unico senatore, Bossi, e di là costruì tutta la storia, per cui è legata al Senato. Per questo difendete il Senato, cara Lussana, è il senatur effettivamente, ma no. Ma chi difende il Senato? Ma no, ma cosa vuol dire? No, non lo so, magari questo. Vabbè, è il momento dell'angolo cucina. Sai, Vincino, che Aurora Lussana tutte le mattine si sveglia il martedì e cucina a quest'ora, così quando arriva la sera a casa trova già pronto. Che ci stai preparando di buono? Ma è una ricetta fusion, si chiama così, è un couscous contaminato con del cotechino bergamasco. Come il couscous? Ma come? Ma cos'è sta storia del couscous? Ma dai. Però se cucino la polenta taragna non va bene, perché sono troppo legata alle mie tradizioni orobiche, culinarie, e non va bene. Se faccio un esperimento culinario di fusion fra la cultura magrebina, anche sicula, perché couscous si mangia anche in Sicilia, vero, sì, vicino? Ottimo, della mia tradizione, un connubio così, un Vabbè, po' alternativo. Ci hai disarmato, non abbiamo niente da dire, cioè di fronte al couscous della leghista, cioè cosa Vincino? È una leghista che cucina il couscous? Ma vogliono prendere i voti al sud, per questo hanno trovato la banca. Ma Vincino vede sempre il male ovunque, proprio il male. Il disastro. Ma è ovunque. Si candida Vincino alle europee? Candida Vincino alle europee? Fui candidato una volta. Per chi? Nella lista antiproibizionista e arrivai secondo nel Veneto. Cioè, hai rischiato di finire all'Europarlamento. Ho rischiato di finire all'Europarlamento. Ho perso 2 mesi di lavoro perché non lo sapevo. Cioè, io ero una candidatura di quelle che ti chiedono i radicali così tanto per, no? E vabbè. Mi chiama il giorno dopo il Corriere della Sera, sono sospeso per 2 mesi. Perché? Perché si presenta alle elezioni. Porca miseria, ho detto io. Che disastro. Ma perché in Veneto, scusa? Veneto, Lazio e Sicilia. Ah, ovunque più o meno. Ovunque. Era una star. Ma la vera domanda è questa che si attende, quella che ha fatto Aurora Lussana, ed è: Aurora Lussana si candida all'Europarlamento oppure no? Io devo lavorare, Milan, non so te, non so Vincino, io per campare devo lavorare, no? Ma cioè, per dire che all'Europarlamento non fanno niente, no? Non ho capito. Sono anche ben pagati, Non so adesso il tuo stipendio da direttrice della Padania, ma mi sa che all'Europarlamento qualche euro in più te lo porti a casa. No, però come Padania seguiremo la campagna elettorale e questo, tu sai che è nato il fronte europeo, sì. La casa del popolo europeo, sì, sì. Dalla Le Pen Wilders, no, che non ci azzecca nulla con la Lega, però vi unite alla Le Pen. Ma come no, è un fronte anti-immigrazionista. Ma quelli vogliono l'unità della Francia, l'unità, l'orgoglio nazionale. Voi siete per il federalismo. Ma io mio orgoglio nazionale lombardo. Sì. Senti, orgoglio lombardo, però non hai risposto, ti candidano o no? Ma non credo proprio, ma scusa. Ma dai, adesso chiamiamo subito Salvini. Subito candidare Aurora Lussana. No, proprio oggi a Radio Padania c'è un ospite della Lega, quindi vi ascolterò anche dopo. Incredibilmente oggi a Radio Padania. Come a Radio Padania? Come a Radio Padania un ospite della Lega, c'è sempre la Lega a Radio Padania. Va bene, dai, ringrazio Aurora Lussana, ringrazio Vincino, Aurora Lussana e il suo couscous fusion. Alla bergamasca, non ho ben capito. Ah no, col cotechino. Couscous con il cotechino. Buono.

Senato, composto da 148 membri, nessuno dei quali eletti, ma governatori di regioni, presidenti di province, quindi persone peraltro che non prendono lo stipendio se non perché sono già pagati a livello locale, e che poi un Senato soprattutto non abbia quel ruolo di contraltare continuo della Camera, che non faccia le stesse cose in un sistema bicamerale. Ci riuscirà? Che ne pensate, cari ascoltatori? 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Voglio salutare la vicepresidente del Senato di Scelta Civica, Linda Lanzillotta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Saluto anche il professor Stefano Ceccanti, che insegna diritto pubblico comparato alla Sapienza. Buongiorno professore, è stato buongiorno. Anche senatore del Partito Democratico. Allora, presidente Lanzillotta, lei si riconosce in queste definizioni, insomma, tra parrucconi, gattopardi? Io spero di no, di non essere né una parruccona né almeno personalmente un gattopardo, perché io sulle riforme spingo da anni, anzi spesso sono stata soccombente, quindi sono dalla parte di Renzi sul fatto che si cambi, che cambi il bicameralismo perfetto. L'osservazione, l'obiezione che abbiamo fatto anche con il presidente Monti e con il collega Balduzzi, su cui appunto ci siamo mossi di conserva su un'ipotesi di perfezionamento della proposta di Renzi, di cui rispettiamo i paletti, e ciò che lui ha dato ieri, no? Cioè Senato non elettivo, fine del bicameralismo perfetto, eccetera. Cioè, siamo dentro questi paletti, però siccome al di là delle indennità il Senato continuerà a costare, il Senato deve essere comunque un soggetto utile che funzioni. Quello che noi non condividiamo è che al ceto politico regionale, che sarebbe quello che compone il Senato, sì, e che come lei sa è forse il peggiore della Repubblica, tutte le mattine quando lei invita, perché io la sento la mattina, a tenere le mani sul volante, in genere molto spesso si tratta di sprechi delle regioni, è chiaro, che riguardano le regioni. Allora, siccome le funzioni che il progetto di Renzi dà sono molto cospicue e noi riteniamo che altre ne debbano avere sulle leggi di principio, non quelle che attengono all'indirizzo politico, ecco, noi diciamo qualifichiamo il Senato e non diamo ai consiglieri regionali questa competenza, anche perché la prima modifica che a nostro avviso dovrebbe essere fatta è quella di ridurre il numero delle regioni. Non dico però questo, scusi, non è e lei ce la vede i consiglieri regionali che eliminano per esempio il Molise o la Basilicata? No, questo certamente no, però non è qui si rischia di cadere poi nella contraccusa di benaltrismo, quello che lo stesso Renzi ha detto, cioè così se si deve iniziare dall'altra parte non si inizia mai. Ma noi diciamo andiamo avanti, però andiamo nel merito. Un conto è il benaltrismo per non farne di niente, un conto è dire, perché con questo ragionamento allora il discorso è o è così o non se ne fa niente, e questo onestamente io credo che non possa essere un buon approccio. Ma che è un po' il discorso costituzionale, un po' il discorso che ha fatto Renzi, cioè o si fa così oppure o così o niente, non lo trovo giusto, o così o entro i tempi che da Renzi, confrontiamoci e perfezioniamo, apriamo la base del Senato per ogni territorio, alle categorie cosiddette, alle autonomie funzionali e sociali, cioè al mondo delle professioni, delle università, della scienza, cioè immettiamo a fare la legislazione quella di medio e lungo periodo, non quella del giorno per giorno che riguarderà la Camera, quelle che sono anche le eccellenze e le competenze del Paese, non solo una classe politica abbastanza screditata come quella dei consiglieri regionali. Questo certamente. Io vorrei sapere dal professor Ceccanti, prima di entrare nei termini della questione, le piace il metodo di Renzi? Perché la sensazione che hanno molti italiani è che faccia così per forzare, appunto come dice lui, non perché ha un tratto disturbato della personalità, cioè correre, andare, fare, ma perché la sensazione è che bisogna forzare anche un po' la mano, altrimenti con i distinguo, in Italia poi non si arriva mai al dunque. Le piace questo metodo? È un metodo brutale per la politica italiana? Guardi, bisogna contestualizzare perché altrimenti non si capisce. Sono 30 anni che di queste riforme si parla e sono pieni di scaffali non solo degli studiosi ma anche del Parlamento a partire dalla commissione Bozzi del 1983. Ora, se fossimo al primo tentativo si potrebbe dire che è una forzatura, venendo dopo 30 anni di cose non fatte, francamente mi sembra il minimo, anche perché questo governo e questa legislatura stanno in piedi se fanno rapidamente le riforme, altrimenti non si capisce perché debba proseguire una legislatura così tormentata anche con un governo formato con una maggioranza così problematica. Quindi io capovolgerei il discorso, sarebbe del tutto irrazionale e contrario agli interessi del paese se Renzi non facesse così. E tra l'altro oggi vede proprio il titolo del Corriere della Sera che è qui davanti, la fronda del PD si prepara, cioè già ovviamente si viene citata in quest'articolo anche l'iniziativa della vicepresidente Lanzillotta insieme a Monti e Balduzzi che ci ha ricordato poco fa, cioè una serie di iniziative che chiaramente tendono o a perfezionare, modificare, cambiare, il timore è anche a frenare questo tipo di riforme. Ora sì, però io dico questo, stiamo attenti a distinguere due livelli diversi, un primo livello è il livello del ragionamento, sui ragionamenti, sulle proposte ci deve essere il massimo della libertà, poi come sempre accade in un partito, di un partito arriva a dei punti di equilibrio che saranno in parte diversi anche dalla proposta di partenza di Renzi, tranne i quattro punti che ricordava la senatrice Lanzillotta come cosa che peraltro accomuna al PD anche le altre forze politiche. Quando per esempio si riunirà come sempre l'assemblea dei parlamentari del PD, arrivati a un punto di equilibrio ci sarà una maggioranza e la minoranza siederà la maggioranza, è sempre accaduto così. In un partito, in un gruppo si fa così, io stesso la scorsa legislatura su alcune proposte di riforma sono purtroppo finito in minoranza e poi quando mi è capitato di stare in minoranza mi sono adeguato alla maggioranza, sono regole di funzionamento. Se qualcuno mettesse in dubbio questo, allora potremmo dire, cioè l'unità di voto dopo che democraticamente si è deciso, potremmo parlare di fronda, altrimenti siamo nella fisiologia di un giusto dibattito democratico, no, massima di libertà nelle opinioni, massima unità nelle decisioni una volta che si è determinata la maggioranza. Senta senatrice Lanzillotta, lei come giudica la posizione del presidente Grasso? Sa che c'è stata questa diatriba anche verbale, non se le sono mandate a dire insomma tra lui e Renzi, no? Certo, è stata un'uscita diciamo irrituale, molto forte, legittima la sua opinione, penso che in una fase così sarebbe stato paradossale che il presidente del Senato non avesse espresso la sua opinione. È giusto che lui ritenga di rappresentare l'istituzione. Io personalmente, per esempio, sul suo punto del Senato elettivo non sono d'accordo, perché penso che se, come è giusto che sia nella proposta di Renzi, che è il pilastro del bicameralismo non più perfetto, solo una Camera dà la fiducia, se anche l'altra è legittimata dal voto popolare è abbastanza illogico allora che non dia la fiducia, quindi io credo che il fatto che il Senato sia di secondo grado è un punto importante e decisivo della riforma di Renzi che giustamente lui difende. Ma lei chi ci metterebbe al Senato, visto che non metterebbe diciamo la screditata, spesso screditata classe politica dei consiglieri regionali? Noi dobbiamo costruire un elettorato passivo che è fatto da consiglieri regionali e sindaci, ma poi per esempio espressione delle università, delle professioni, degli istituti scientifici di ricerca, dei tecnologi, cioè gente che abbia una visione del paese, del mondo e del futuro che possa rifluire dentro la legislazione di medio e lungo termine che viene affidata al Senato e questo collegio elettorale esprima sulla base di liste dei rappresentanti nel Senato. Bisogna fare una legge attuativa rapidissima che noi presenteremo insieme ai nostri emendamenti, alla nostra proposta di revisione costituzionale che stiamo depositando oggi e quindi la vediamo così, cioè non una cosa chiusa nel ceto politico, ma che sia, per esempio, io sono d'accordissimo, ho una mia proposta presentata già da due legislature di soppressione del CNEL, però l'idea che era dei costituenti di coinvolgere quei pezzi di società nelle decisioni delle istituzioni va recuperata immettendoli in un Senato che abbia delle competenze mi sembra di capire comunque non c'è un ostracismo alla proposta, anzi un sostanziale appoggio, ma una modifica non c'è nessuna e io ritengo che la velocità anche nella decisione sia giusta per dare il senso al paese, che questo paese si sblocca, c'è una ripartenza, e guardi, sarà importante anche per l'economia, perché le aspettative in economia sono molto importanti, per cui se si vede che l'Italia appunto esce dalla sua depressione, dal suo immobilismo, io credo che sarà attrattiva anche dal punto di vista degli investimenti e degli stimoli all'economia. Certo, ci saranno effettivamente questi però 21 soggetti, no, nel Senato voluto dal governo, 21 soggetti nominati in base alle loro qualità e le loro eccellenze nel mondo della cultura, dell'arte, insomma forse rispecchiano un po' il pescare in quella società civile a cui lei ha fatto anche riferimento. Vorrei però dal professor Ceccanti, prima di andare in pubblicità, capire, e poi ci raggiungerà, voglio ricordarlo, anche il senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle, per capire perché il Movimento 5 Stelle invece osteggia questa riforma. Ceccanti, le chiedo questo: gli ayatollah della carta, qui fa riferimento il professor Clementi, esistono, e se esistono chi sono? Oggi sul Foglio ne parla. Ci sono in Italia? Guardi, esiste una minoranza intensa, molto minoranza e molto intensa, che ogni volta che si parla di riforme che allineano gli standard decisionali italiani a quelli delle altre democrazie europee, sono convinti che urlano al golpe, alla regressione democratica e cose del genere. Mi sembra che nel giro di 24 ore ieri due uomini provenienti dalla storia della sinistra o dal percorso della sinistra, il Presidente della Repubblica Napolitano, con un breve comunicato in cui definisce queste riforme assolutamente necessarie e utili nel breve tempo, al di là del contenuto, e dall'altra l'intervista di Matteo Renzi, hanno definitivamente chiarito che queste posizioni anche nel campo della sinistra e centrosinistra sono assolutamente minoritarie. In teoria questo dovrebbe deporre a favore di una rapida e veloce riforma, però come dice lei se ne parla da 30 anni. Ma vogliamo tornare dopo la pubblicità tra un attimo con Linda Lanzillotta, con Stefano Ceccanti, ripeto anche con Nicola Morra, cercare di capire anche come succede e cosa succede nel mondo, negli altri paesi. Il professor Ceccanti ci aiuterà a capire se davvero quella di un senato più snello è una follia alla quale pensa il governo italiano, oppure è un sistema che c'è, è riproponibile, riproducibile anche in altri paesi del mondo. Intanto anche la vostra chiamata all'800 24 00 24, state con noi 24 mattino. Allora è definibile così questo scontro per la riforma del Senato? Da una parte gli innovatori, i riformatori, Matteo Renzi, dall'altra parte i conservatori, i parrucconi, quelli attaccati alla poltrona. Ne stiamo discutendo con Linda Lanzillotta, vicepresidente del Senato di Scelta Civica, con il professor Stefano Ceccanti e con, lo voglio salutare, il senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle. Ben ritrovato, buongiorno Morra. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, anche lei è un parruccone, la domanda, visto che l'ho fatta la vicepresidente Lanzillotta, la faccio anche a lei. È attaccato anche lei allo scranno per cui il Movimento 5 Stelle non vuole questa riforma? Io la parrucca non l'ho mai messa in vita mia. Io penso che le cose vadano giudicate in funzione delle esperienze, delle riflessioni che si fanno. Noi abbiamo sempre sostenuto che l'architettura costituzionale possa ed eventualmente debba essere ripensata, ma abbiamo anche sempre sostenuto che l'architettura è un qualcosa che poi prende anima in funzione della capacità di chi vi abita di appunto animare il sistema. E allora io ripeto a me stesso sempre, perché poi noi dobbiamo sentir quanto pensano i nostri attivisti, che il bicameralismo perfetto potrebbe certamente essere alleggerito da alcune funzioni. Leggo che per esempio il nuovo Senato potrebbe non essere tenuto a garantire la fiducia all'esecutivo, e questa potrebbe essere una via interessante da non escludere, però leggo anche altre cose che francamente mi convincono. Ecco, perché effettivamente secondo me molte persone che hanno votato anche il Movimento 5 Stelle potrebbero essere rimaste stupite da questo ostracismo alla riforma. Ci aiuta a capire che cosa non va bene, perché insomma voi siete per diminuire i senatori. Allora, se noi sosteniamo che il Senato debba essere abolito per velocizzare il processo di formazione delle norme, commettiamo un errore, perché in passato si è dimostrato che quando si voleva le leggi venivano approvate in pochissimi giorni, meno di 15 anche, meno di 10, perché c'era la volontà. E allora in quel caso la domanda è: com'è che è funzionato il tutto? Forse non c'era in quel caso il bicameralismo perfetto? No, la risposta è ovvia, c'era semplicemente una forte volontà di approvare leggi. Poi in altri casi la volontà era magari espressa, ma ipocritamente ben diversa, per cui si faceva credere che naturalmente il motivo per cui la legge non veniva approvata era da individuare nel bicameralismo perfetto. Io penso che si possa per esempio far parecchio per velocizzare il processo di formazione delle norme attraverso una revisione dei regolamenti delle Camere. Se al contrario, come pare, si vuole risparmiare, io penso che la cosa più semplice possa essere, per esempio, dimezzare il numero dei parlamentari tutti, Senato ma anche Camera, e diminuire della metà le indennità che vengono corrisposte a tutti i parlamentari, anche perché ci sarebbe, mi scusi, un effetto domino su tutte le altre Ma non è un buon inizio? A livello di consigli regionali. Ma le chiedo, senatore Morra, se in attesa di arrivare a quello che lei auspica, non è un buon inizio scendere a 148 senatori non pagati? Ma guardi, su questo, sul dimezzamento del numero dei senatori, noi non abbiamo alcuna difficoltà. Che si faccia, ma sulla revisione delle funzioni del Senato, attenzione, perché ci sono altri problemi. Se noi indeboliamo il Parlamento, le altre istituzioni che organizzano l'architettura del nostro Stato dovrebbero essere ripensate. È come se lei andasse a alleggerire una trave di un palazzo e rischia poi di crollare dovrà tutto, subire che ci sarà qualche crollo. Va bene, no, ma è chiaro. Sentiamo qualche ascoltatore. Simonetta da Genova. Simonetta, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un cittadino, quindi non sono né un paroccone né ho poltrone da difendere. Ma è una mia semplificazione, non ce ne sono, ma insomma, vabbè. Io sono contraria nel merito e nel metodo di questa riforma e non mi sento minoranza nel paese. E voglio ricordare che Renzi non è stato votato, ma è lì grazie ad una legge, è stato nominato, e se è lì lo è grazie a una legge che è stata definita incostituzionale. Per cui non so quanta legittimità abbiano a fare queste riforme. Se le vogliono fare, che seguano la Costituzione e diano la parola ai cittadini attraverso un referendum. Insomma, lei fa tornare un po' indietro la questione, dovrebbe essere legittimato intanto dal popolo lo stesso Renzi, lo stesso presidente. Certo che dovrebbe essere legittimato. Ma guardi che ci arriveremo forse presto, se ci arriveremo forse presto, Simonetta. No, ma nel senso, lei se lo augura. È stato votato da circa il 30% dei cittadini, dei votanti, che è circa il 60-70%. No, ma io dico ci arriveremo presto, no, è chiaro, ci arriveremo presto, dico io, perché ho la netta sensazione, ma si vede dalle dichiarazioni, che Matteo Renzi sia in permanente campagna elettorale, cioè questo porre o si fa così o non va bene, o succede che o crolla il governo, è un modo, come dire, o si fa le riforme, o si fanno le riforme, o si spinge in questo, oppure non so, Linda Lanzillotta mi corregga se sbaglio come lettura politica, oppure sapete che c'è, io faccio cadere tutto, poi si va alle elezioni e così magari se vince e se vinco vengo anche legittimato dal voto, quindi a quel punto non potete proprio dire più nulla sulla legittimazione. Lei lo vede in campagna elettorale o agitare questa minaccia elettorale Renzi da un certo punto di vista? Beh, sicuramente l'approccio è quello ultimativo di dire io sono sulla cresta dell'onda, quindi diciamo, per me andare a votare potrebbe essere anche un risultato positivo, salvo che poi con questa legge elettorale si troverebbe di nuovo a non avere governabilità, perché poi anche questa minaccia va un po' valutata, quantomeno per gli interessi del paese, quindi non è che se si votasse ci sarebbe un risultato che darebbe in Parlamento una maggioranza autonoma a Renzi, quindi io credo che lui realisticamente incalzi il Parlamento, perché occorre decidere, occorre realizzare, ma la questione, la prospettiva poi delle elezioni è tutta da vedere, perché non credo che converrebbe davvero nemmeno a Renzi. Se posso dire sui 5 Stelle, intanto ecco, vorrei completare dicendo che sul punto della riduzione dei deputati siamo molto d'accordo anche noi, perché riteniamo che c'è un problema di inefficienza del bicameralismo e il fatto che quando si vuole si decide, io credo che non è un ragionamento, il problema è che il Parlamento deve in modo trasparente decidere e non quindi avere l'alibi della navetta e del rimpallo da Camera a Senato per non prendere una posizione su temi importanti, ma anche la Camera va ridotta nel numero, perché 630 deputati sono un numero eccessivo che non dà efficienza alla Camera. Guarda, quindi... che è bellissimo sentire, perché i cittadini correrebbero a firmare dove chiede lei per fare quello che lei dice, però è questa la... Beh, noi adesso, siccome dobbiamo decidere rapidamente come ci chiede Renzi, noi questa cosa la proporremo come emendamento al testo del governo. E io penso che questo è un punto, siccome mettiamo mano alla forma, al sistema parlamentare, e l'unica cosa su cui sono d'accordo con il collega di 5 Stelle, un po' tutto si tiene, dobbiamo vedere anche gli altri pezzi, quindi sì. Sicuramente il Senato, sicuramente una qualità diversa del Senato, su questo noi faremo una battaglia, perché non riteniamo che si possa affidare solo al ceto politico regionale una decisione in materia costituzionale, di normative di raccordo con l'Unione Europea, di principi base in materia di contabilità e di fisco, come è nella proposta del governo. E l'altro è rendere più efficiente tutto il sistema parlamentare, intervenendo anche sulla Camera. Allora, sull'efficienza, dopo il traffico, vorrò sentire il professor Ceccanti, tornare da Morra, Lanzillotta, anche gli ascoltatori, per capire se davvero questo sistema proposto da Renzi, dal governo Renzi, possa rendere più efficiente e snelle le procedure in Italia, e capire anche come succede in altri paesi. Ripartirei da Giovanni da Reggio Emilia, che era lì da un po' come ascoltatore, lo ringrazio per la pazienza. Giovanni, dica. Sì, senta, io cerco di sintetizzare, sì, perché grazie. Naturalmente con tutti i limiti del caso. Dunque, allora, io sono dell'idea che questa riforma è fin troppo timida, bisognerebbe togliere il Senato, non tanto perché i senatori non siano persone degne, preparate o quant'altro, ma se vogliamo ottenere dei risultati bisogna un po' sfrondare. Io sono di quest'idea, cioè addirittura cancellare il Senato, sì via, ma non solo il Senato, cioè di potature ce ne sono da fare, e sarei, guardi, dell'idea, proprio per sintetizzare, di considerare questa fase, di incoraggiare Renzi ad andare avanti in questa, consideriamola quasi una pars per poi costruire di nuovo. Va bene, interessante. Insomma, non scrivibile, non c'è niente, non, nessuna parte della Costituzione è intoccabile. No, no, ma è chiaro. Lei, Giovanni, dice vada avanti in questa parte distruttrice. No, scusi, Giovanni, così siamo tutti sintetici, tanto è stato molto efficace il suo intervento. Professor Ceccanti, addirittura ci sono strumenti, ci sono diciamo istituzioni, ci sono stati dove si può ipotizzare di cancellare una delle due Camere, come suggerisce il nostro ascoltatore di Reggio Emilia? Beh, dipende, cioè, se le dobbiamo fare uguali, allora tanto vale cancellarle, cioè non si giustificano due enti che siano del tutto uguali come legittimazione e come poteri, tanto vale averne uno. Se invece, e questo è il senso della proposta di Renzi, noi riteniamo di doverne fare un secondo profondamente diverso dal primo, allora si giustifica. E si giustifica soprattutto nei grandi paesi che hanno una forte articolazione regionalista e federalista, perché il problema è una seconda Camera che tolga il problema del contenzioso Stato-Regioni che oggi si scarica sulla Corte. Da questo punto di vista io sono d'accordo con Renzi e anche con quello che sostiene la senatrice Lanzillotta nel fatto che non debba essere elettivo, che si giustifichi perché non è elettivo. Però, a differenza della senatrice Lanzillotta, io penso che quello debba essere il punto di snodo Stato-Regioni e quindi si giustifichi esattamente perché quella sia una sede di confronto politico-istituzionale con le regioni, tant'è che il testo mette insieme la riforma titolo quinto, rende mobili i confini tra Stato e Regioni, ma per questo allora c'è bisogno. Quindi, che ne so, la conferenza Stato-Regioni la cancellerebbe? La conferenza Stato-Regioni però è un'altra cosa. Il problema è il dialogo tra legislatori. Se non c'è un dialogo, nel momento in cui noi diamo ampia potestà legislativa alle regioni, non c'è un luogo dove questi legislatori dialogano, è chiaro che in assenza di dialogo tutti è si incaricano. E questo dovrebbe essere il Senato delle autonomie. Io, sì. Senatore Morra, mi faccia capire come ci comporterete, se avete già una linea, come vi comporterete, cioè voterete no tu cura a questa, perché alcuni aspetti di questa riforma mi sembra di capire che lei può dire, beh, non so, se si diminuiscono i senatori, bene, cioè, il Movimento 5 Stelle siamo contenti, ecco, se si diminuiscono. Ci sono aspetti, beh, che potreste votare? Io riprendo le considerazioni che faceva per telefono l'ascoltatore. Se noi dobbiamo sfrondare, noi siamo assolutamente d'accordo a lavorare per sfrondare. E sfrondare significa agire su tutte le istituzioni per alleggerirle e per velocizzarne l'operatività. Ma se dobbiamo ristrutturare il sistema, benissimo, allora cautela, prudenza, anche perché il sistema è stato pensato da persone che avevano grandissimo acume politica intellettuale. Poc'anzi il professor Ceccanti, per esempio, faceva riferimento alla litigiosità, alla rissosità Stato enti locali, però a me viene da ricordare che questa rissosità si è aumentata in maniera impressionante dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi quando si è messo mano forse un pochino troppo alla leggera, e allora rivisitiamo il tutto e cerchiamo di capire che bisogna sì velocizzare le funzioni, bisogna sì magari alleggerire le funzioni, però nel rispetto di un equilibrio di pesi e contrapesi che va garantito. Negli ultimi anni noi abbiamo visto sempre più trasformarsi la nostra Repubblica da parlamentare in forse presidenziale, come molti sostengono. Abbiamo visto che per esempio il Parlamento ha perso la capacità di iniziativa legislativa e su questo bisognerebbe ragionare. Le faccio un esempio classico: noi al Senato ci siamo visti molto spesso arrivare provvedimenti dalla Camera, si tratta soprattutto di decreti legge, perché noi ultimamente facciamo semplicemente gli zerbini del governo da questo punto di vista, e ci siamo visti arrivare provvedimenti, decreti legge dopo 52-54 giorni che erano stati presso l'altra Camera. Ora, dovendo convertirli in legge in 60 giorni, di fatto la maggioranza, anche se non formalmente, ha posto una fiducia, e questo non è bicameralismo perfetto, per cui attribuire al bicameralismo perfetto difetti di funzionamento forse voluti significa giocare con le parole e naturalmente nascondere la verità. Poi per quanto riguarda per esempio l'alleggerimento delle funzioni, sentivo la collega di Scelta Civica, no? Benissimo, però si facesse tutto questo, si presenti questo emendamento, ma io ricordo a chi ci ascolta che per esempio noi che abbiamo sempre detto che si poteva tranquillamente fare a meno dei consigli provinciali, in coerenza non abbiamo mai presentato liste presso i consigli provinciali, invece gli altri che da sempre dicono, da quantomeno dal 2008, bisognerebbe abolire le province, poi di fatto poi si candidano. Continuano. No, ma è chiaro, tra l'altro a proposito di province, oggi il Sole 24 Ore scrive che le province forse escono dalla finestra perché c'è l'abolizione totale, ma ci sono questi enti di area vasta che non si capisce se possono cambiarne nel nome ma mantenere le funzioni. Voglio chiudere con Linda Lanzillotta, lei a naso così in Senato, ci sono i numeri? Perché sa che su questo si è instaurata anche una polemica con Grasso che ha detto non ci sono i numeri, e un po' in modo irrituale è intervenuto, dice Renzi, prima ancora che la riforma fosse presentata. Ci sono i numeri, oppure questa fronda per esempio del PD di cui si parla già sui giornali potrebbe essere il vero ostacolo alle riforme? Guardi, io non sono in grado di valutarlo, credo che i punti chiave siano da una parte la posizione di Forza Italia e di Berlusconi, che mi sembra un po' confusa perché ci sono posizioni un po' diverse, ancora non mi pare chiara la linea che intendono seguire. La mia valutazione è che alla fine, siccome non vogliono una crisi politica in questo momento, Forza Italia sosterrà la riforma. La vera incognita è nel PD, dove il PD. Mi sembra che i malumori siano molto profondi. Noi voteremo a favore a condizione che vengano prese in considerazione seriamente, recepite alcune delle nostre istanze, ma a me pare che sono istanze migliorative nella logica di Renzi, quindi io mi auguro che andremo finalmente, dopo tanti anni, come ricordava Ceccanti, a un risultato. Una riforma. Questo si vedrà poi nel dibattito parlamentare. Certo, come dice lei, effettivamente la fronda, comunque il malumore all'interno del PD sono le questioni più spinose, anche dal punto di vista di numeri, poi i voti si contano quando bisogna far passare qualcosa. Ringrazio tutti, Linda Lanzillotta, vicepresidente del Senato di Scelta Civica, Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle, il professor Stefano Ceccanti, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli e Miriam Lucchetti, insieme al nostro alpino Peter Bescapè, che già sta spolverando la penna nera per il raduno degli alpini. Vi diamo appuntamento a eccolo, a domani alle 6:30.